24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Iniziamo così con un tocco di nostalgia e malinconia. Roxy Bar. Ha chiuso il Roxy Bar, quello della canzone di Vita Spericolata di Vasco Rossi. Ha chiuso. Bevute al Roxy Bar per Paolo Del Debbio, che saluto. Del Debbio, buongiorno. Buongiorno, però se cominci così si comincia male. È venerdì di passione, venerdì. Ho capito, poi la di politica dolore. Di non ne puoi neanche parlare. Dopo. No, no, ma noi possiamo parlare di quello che ci pare. Ecco, meno male. Ecco, vabbè, ha chiuso il Roxy Bar. Quante bevute anche per Andrea Sarubbi al Roxy Bar. L'hanno visto varie volte con Vasco Rossi. No, io quanti concerti di Vasco più che altro. Vedi. Ma direi che è la vita di Vasco che nel frattempo è diventata un po' meno spericolata, quindi la chiusura del Roxy Bar è in linea, credo. È in linea, è vero. Non c'è più la vita spericolata e quindi Roxy Bar ha chiuso. Vabbè. Chiude Roxy Bar. Voglio salutarvi alle 6:32 minuti. Buongiorno cari italiani, dai, che poi settimana prossima siamo tutti in ferie. Cioè, io sono in ferie, voi non lo so. Saluto oggi Pietro Lacorte, guardate là come lotta dietro alla regia insieme a Peter Bescapè, il nostro alpino che è in regia. Pietro Lacorte è lì che segna numeri, chiama. Ebbene sì, c'è chi è già in vacanza d'altronde. Allora, questo è 24 mattino, sono le 6:33 minuti, abbiamo iniziato così con Vasco Rossi, vabbè, ha chiuso il Roxy Bar, sapevatelo, come si dice su Twitter. Ora apriamo invece il Parlamento, dai, via Roxy Bar, dentro il Parlamento. Stride un po' il confronto, però al Parlamento c'è Nicole Minetti che offre il caffè. Volete mettere mica un vecchietto che vi offre l'ultimo cicchettino, l'ultimo whisky a Roxy Bar. Allora, come detto, siamo con noi Paolo Del Debbio, conduttore. Buongiorno. Di Quinta Colonna, vincitore del premio. Vincitore, roba da matti, No, come l'ha vinto anche Radio 24 il premio, appunto, peggio ancora. No. Ha vinto il premio proprio a tutti, No. Mi riferisco a me, ovviamente no, si riferiva a Radio 24, Paolo Del Debbio sputa nel piatto di Radio 24. Comunque conduttore di Quinta Colonna, ma lunedì che fate? Siete in onda? No, voglio sperare. No, meno lunedì Pasqua, lunedì che facciamo festa. Infatti. Va bene. Saremo in onda il 2 giugno, figurati un po'. Il 2 giugno, sì. Mannaggia. Sti lunedì di festa, dovrebbero abolirli proprio per decreto. Saluto anche Andrea Sarubbi, eccoci Andrea Sarubbi che ci racconta sempre tutto quello che accade alla Camera, la Camera che è chiusa, no? Andrea. Ieri vedevo che si facevano gli auguri di buona Pasqua, quindi vuol dire che hanno finito, sì, probabilmente. Credo che si ritorni la settimana prossima, mercoledì. Si ritorna mercoledì. Così. Ma non chiudevano il serato? Vabbè, sì. No, la forma del debbio, la del debbio, del debbio, questa mattina ha un bioritmo pazzesco. Spara... Il fuso orario di Mosca, cioè sì. Lui è un paio d'ore in anticipo del debbio, quest'ora dormo. Del debbio, sì, è così. Cioè, hanno chiuso temporaneamente la Camera, chiuderanno il Senato, non si sa. Vabbè, a tutti se vediamo mercoledì, questo si sono San salutati. San Pietro è aperto. Certo, San Pietro è aperto. Oggi però c'è il Consiglio dei Ministri decisivo. Finalmente sapremo gli 80 euro dove li vanno a pescare, sicuramente tagliando 2 miliardi e mezzo alla sanità. C'è già il ministro Lorenzin che è un po' arrabbiata. E poi pare che Renzi con il ministro Padoan abbia scongiurato la possibilità di ridurre gli oneri, quelli detraibili per i redditi medio-alti, cioè ha evitato che per pagare gli 80 euro a qualcuno si togliesse i soldi ad altri. Questa del debito potrebbe essere una buona notizia almeno. Sì, hanno scongiurato il pericolo di diminuire le tasse da una parte e di fatto aumentare da un'altra. Perché questo credo che lo volessero evitare, perché l'attacco in campagna elettorale era semplicissimo a questo punto, no? Dice sì, le hai diminuite lì e le hai aumentate al ceto medio alto, ma al ceto medio alto ci sono anche quelli che guadagnano poco e poi hanno una casa sola e poi pagano l'affitto e poi hanno un dolore al piede e quindi, capito, veniva fuori quella roba lì. Allora la sanità è più facile giustificare, perché uno dice sì, ma ci saranno 2 miliardi di spreco su 105 miliardi di spesa? No? Certo che ci sono, allora è tutto semplice. Insomma. Taglieremo gli sprechi, si dice sempre, ecco. Così. Invece chissà perché va sempre a finire, mi sa che tagliano le cose buone e poi gli sprechi quelli. Perché si vede che l'italiano medio è uno spreco, forse, perché Giovanna sempre addosso a quello. Può essere. Sarubi, che clima c'era ieri alla Camera su questo DEF, visto che ieri si è votato, no? E sugli 80 euro che oggi dovrebbero essere. Ma io direi campagna elettorale piena, ecco. Ma ormai è da un pezzo, cioè, ufficialmente è cominciato da poco, ma è almeno un mesetto che c'è campagna elettorale alla Camera, quindi quando si parla sempre per la televisione e raramente nel merito. Mm-hmm. Ieri c'è stato questo, come posso dire, no, aggiustamento di rotta, ecco, sul bilancio dello Stato, no? Mm-hmm. È arrivato Padoan sia alla Camera sia al Senato e ha detto datemi l'autorizzazione a rinviare di un anno il pareggio di bilancio, cosa che per carità è previstissima, nel senso che quando venne approvato nel 2012, se non ricordo male, l'equilibrio strutturale di bilancio in Costituzione, si prevede anche la possibilità di scostarsi nel caso di cose eccezionali. Allora è arrivato Padoan, ha detto sì, la cosa eccezionale è che diamo i soldi indietro alle imprese che hanno crediti con la pubblica amministrazione, quindi spostiamo. Ed è una cosa su cui tutti quanti in teoria avrebbero dovuto essere d'accordo, perché tutti quanti nel corso di questi anni hanno detto che schifo, il rigore è una vergogna e noi adesso non avremo la possibilità di fronteggiare la crisi, eccetera. Però siccome è campagna elettorale, improvvisamente ieri pure quelli che erano d'accordo non erano più d'accordo. Questa è la campagna elettorale, ha questo tocco di magia, no? Che riesce a far cambiare idee, è del debbio, per un paio di mesi la gente, i politici pensano quello che gli conviene. Però su questo in particolare, più che magia, c'è cialtroneria, nel senso che voglio dire, no, su, onestamente lo dico, cioè su la magia del cialtrone, no? Cioè, o la cialtroneria del mago, che in questo caso qui ha detto bene il collega prima, no? Cioè, cosa vuol dire? L'hanno detto tutti, e poi comunque quella norma lì era stata fatta in modo abbastanza intelligente, mi ricordo che aveva influito su questa documenti che aveva fatto l'attuale presidente della Consob, che si chiama Giuseppe Vegas, che l'aveva pensata lui originariamente questa norma nel nuovo bilancio pubblico, e che aveva detto sì, d'accordo, il 3%, ma che non sia un cappio in casi eccezionali di emergenza, d'urgenza, insomma, eccetera, si può. Ora, quando Padoan dice che la restituzione dei debiti della pubblica amministrazione è in questa fattispecie, senti come parlo bene stamani, dice bene, no? Poi, sono mica venuto giù con la piena a Milano. Ecco, eccolo lì. Sarubbi è così, ce lo dobbiamo tenere così del debito. Scoppiettante, scoppiettante. Un altro scoppiettante, l'avete visto Berlusconi? Sarubbi è riapparso un po'. Ho incontrato Umberto Pizzi. Fotografo da Zagarolo, fotografo a lungo tempo di Lago Spia, adesso fotografa per formiche e vari altri libri professionisti. Sarà stato contentissimo di... E mi ha detto che l'ha trovato bello cerato, quindi insomma quando Berlusconi è bello cerato è buon segno, dire che in faccia era ben pitturato, e invece era un po' così, mo mi spiace perché magari è amico di Debbio, no? Però era un po' delusino da Toti. Insomma, questo Toti non mi convince troppo, non mi pare. Chi è amico di Debbio? Berlusconi? No, dico questo, dico Umberto Pizzi da Zagarolo. Ah, Umberto Pizzi è mio amico? Abbiamo capito, Sarubbi, non approfondiamo la questione Toti con del Debbio. Ma dai, che siamo amici. Amicissimi. No, del ma veramente, non c'è tutti niente. A Roxy Bar li hanno visti passare dei weekend. No, a Roxy Bar no, perché mai si andavano altri posti. No, amico. Vabbè, ma in che senso, Sarubbi, Toti non hai fatto? Cioè, dal punto di vista dell'obiettivo del fotografo, non rende? No, diciamo lo sguardo l'ha visto poco combattivo, ecco, non lotta abbastanza, diciamo, per dirla così. Quindi era un po'. No, a parte gli scherzi, diciamo che la cosa di Berlusconi, secondo me, mi ha dato un po' l'idea del come quando si becca una foto, no? L'altra sera sono a casa dei miei genitori, ho riguardato le foto dell'album con i miei bambini e gli ho spiegato che una volta anche i nonni erano giovani e allora ci hanno messo un po' a capire dei bambini, però hanno capito, a un certo punto hanno visto pure il nonno bambino con i piedoni lunghi, no? E ridevano perché pure il nonno era stato bambino, ecco. Berlusconi mi ha dato un po' quell'idea, una roba di qualche anno fa. Però vogliamo sentirlo, Berlusconi che è tornato e si è cucito anche la bocca, appena gli hanno chiesto i magistrati, sapete che se dice una parola fuori posto rischia gli arresti domiciliari. Sentite Berlusconi. Secondo lei era questo l'intento, tra gli altri, della magistratura, cioè favorire la sinistra alle elezioni? Non risponde, si è cucito la bocca del Debbio. Sarà dura avere dichiarazioni da Berlusconi su questo. Dovrà mettere un filo... un canapo alla bocca. Racconta al Corriere della Sera che si sveglia tutte le mattine, ha detto ai suoi: mi sveglio, vado davanti allo specchio e dico: i magistrati sono belli, i magistrati sono buoni, i magistrati sono cari. Mi consente, così. Fa le prove. Caro Milan, mi consente. Fa le prove. Ma come sta Berlusconi del Debbio? Dai, non è vero che non l'avrà incrociato, l'avrà sentito. No, incrociato non l'ho incrociato. Sentito? No, ho sentito una volta, un po' di giorni fa. E come sta? Perché era, diciamo, erano mesi, forse un anno che non avevo occasione ha chiamato lui? L'ho chiamato io per salutarlo perché era, ripeto, quasi un anno che non lo sentivo e vedevo. E che ha detto Berlusconi? Ma l'ho sentito... Tanto mica violiamo la privacy. No, ma per carità, una telefonata, non è che c'è il segreto. L'ho sentito abbastanza bene, nel senso che mi ha detto: ho fatto questa roba così, di questa cosa che deve fare l'assistenza, eccetera. Mi ha spiegato che quel processo era falso per una serie di motivi. Sì, vabbè, queste cose. Conoscevamo, perché aveva detto che Grama faceva, non conosceva, tutte queste robe qua. Però l'ho sentito come, insomma, se volesse... Sai cos'è Berlusconi in questa fase? E lo dico anche al collega, è che è vero che, certo, ragazzi, alla sua età è tutto, ma lui è coscientissimo che i voti in questo paese vi ce l'ha ancora, capito? Questo sì. E quindi questa coscienza qui, se sai che c'è qualche milione di italiani che, insomma, tutto sommato in te ci crede e ti vota, Insomma, non tu è ci proprio credi? Una cosa da nulla, dal punto di vista ma psicologico, personale, sempre, politico. Sempre il Corriere racconta che Samori, ve lo ricordate Samori, era lì seduto ieri, alle presentazioni ha detto al vicino: oh, ma tu pensi di essere eletto? E quell'altro gli ha detto: bah, non lo so, qui se Berlusconi non prende dei voti siamo fritti tutti. No? Cioè questo... Ma infatti la cosa, Alino, questo la cosa... è vero dal 94. È vero, è vero. La cosa incredibile è che comunque a destra, no, si litiga regolarmente, ci si scinde e poi, si dice poi però... peste corna, e poi alla fine si torna sempre lì sotto. Uniti. Perché si sa che l'unico perché che voti, canalizza poi... voti ma certo, è l'effetto Democrazia Cristiana. L'effetto Democrazia così. Sarà contento, no, questa non ritelefoniamogliela del debito a Berlusconi, l'effetto Democrazia Cristiana. Nel senso che nei momenti difficili poi, lo sapete meglio di me, lo scudo crociato lo scudo crociato si riuniva, cioè, però magari si divideva, si scossavano, si litigavano, però poi entravi nell'urna, vedevi lo scudo crociato e venivi attratto, abbagliato, le vecchiette qualcuno si ginocchiava anche. Sentiamo Berlusconi sugli anziani, è contentissimo di andare ai servizi sociali. Il tribunale di sorveglianza mi ha invitato a dedicare parte del mio tempo ad aiutare delle persone che sono in difficoltà. Devo dire che questa cosa mi ha fatto addirittura piacere, perché io nella mia vita ho fatto sempre delle attività di supporto a chi ha bisogno. Vabbè, gli ha fatto piacere, sentite anche... Ah, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora, sentite anche questa, senti anche questa, aspetta. Lo farò più che volentieri e cercherò di essere utile anche in questa occasione, ancora per dire, sono andato moltissime volte a trovare degli anziani, l'ho fatto soprattutto negli ultimi 2 anni di vita della mia mamma, che si era messa questa attività al centro dei propri programmi. Ma cosa vuol dire? Cioè, è andato a trovare la mamma, qui trovava gli anziani e Sarubi, insomma, è contento. No, accompagnava la mamma dagli anziani, ma insomma non capite niente. Accompagnava gli ultimi 2 anni. Vabbè, ma insomma, allora, però se vi devo spiegare tutto, alle 6:30, avevo fatto disinformazia. Chiedo venia, Sarubi. È da metterci la firma, perché un pomeriggio a settimana con i coetanei. Dico, ma se tu potessi scegliere, eccola, un pomeriggio a settimana con i tuoi coetanei, hai ascoltato, cioè, io lo metterei per legge il pomeriggio a settimana con i coetanei, ecco. Io i miei coetanei non li vedo da una vita, secondo me è stato fortunato anche Berlusconi, che può passare un po' di tempo con le persone della sua età, sta bene, ma a parte tutto, infatti, insomma, non è una grande pena, mi sembra. Così è, ma infatti pare contento, pare allegro, pare felice, bene, andiamo a sentire il traffico, tutti allegri e contenti. 24 mattino. I poliziotti hanno già la divisa che li difende, nel senso che loro possono mettere in difficoltà chiunque, mentre chiunque non può mettere in difficoltà il poliziotto. Abbiamo degli esempi eclatanti, gli Aldovandi, 18 anni massacrato dagli agenti in divisa. La divisa li protegge, non hanno bisogno di altri protettori. Una telefonata questa per smentire questo fatto dei 1200 euro che guadagnerebbero i poliziotti. Guarda, ci sono CUD di sottufficiali da 50.000 euro l'anno. Non vuol dire che se guadagni di più puoi calpestare le persone, però è anche bene che il giornalista faccia un'inchiesta sui guadagni reali. E c'è da dire pure che questi servitori dello Stato in molte zone d'Italia non pagano nulla, oppure hanno una forte scontistica nei negozi vari. E questo, diciamo, è un po' sotto gli occhi di tutti. La dichiarazione fatta dal prefetto di Roma Pecoraro sembra una di quelle vecchie dichiarazioni dei generali da prima guerra mondiale, che dopo aver raso al suolo un'intera città e aver fatto 100.000 morti, asserivano che comunque lo scontro era stato un successo. Complimenti. Se vuoi sentire un vero commentatore, c'è Alessandro Mila a 24 ore. Fior de Giaggiolo. Adesso, tra poco, Alessandro Milan andrà a fare una settimana di vacanza e nessuno al mondo la merita più di lui. Vabbè, la ringrazio, signora. Oh, ma non so se quello del Debbio, se mi fa un favore, quello del commentatore, non la mando in giro qua all'ufficio del personale, cioè perché... Commentatore Mila, ma che tenerezza. Mamma mia ragazzi, che brutta cosa la solitudine. Allora, se avesse 100 anni o 12. No. Allora, notizie che ho trovato qua e là. Ah, hanno trovato un pianeta simile alla Terra, caro Sarubbi. Dista solo 500 anni luce, però voglio dire, con calma possiamo pianificare. Si chiama, com'è che si chiama? Kepler F86b. Tipo una roba. Sarà l'UDC su quel pianeta? Sì. Pare si candidi Mastella. Sì. Casini è già lì e dalle carte. Casini, esatto. Mastella, arriva, ce lo trova. Mastella si candida. Mastella ha detto: oh, avete sentito Berlusconi? Ci vuole rinnovamento e esperienza. E beh, io sono l'esperienza. Ecco, non avevamo dubbi. È un grande Mastella. L'ho visto lunedì scorso. Era proprio da Del Debbia. Mastellone. Combattere, vabbè. È stato grandioso. Vabbè, ma Mastella è sempre Mastella. E poi cosa ho visto ancora? Oh, questa Sarubbi, che paese è quello in cui il prefetto di Caserta, questo racconta i giornali, aveva consegnato le chiavi della reggia di Caserta a Cosentino che ci andava a fare jogging? Mamma mia. E vabbè, adesso È un paese brutto, è un paese veramente, mi hai fatto una domanda che mi ha ammazzato la mattinata. No, dai, alle 7 devo pensare per tutto il giorno a questa notizia che non sapevo. Oggi sui giornali c'è la lettera: eccellenza, le consegno le chiavi, cancello ingresso, cancello lato, così lui andava a fare jogging quando voleva. E questo è Don Raffaele, no? È Don Raffaele di De André, è proprio la canzone di De André, Don Raffaele. La nostra sigla di chiusura, effettivamente. Questa è proprio l'Italia, penso l'Italia purtroppo. Vabbè, e poi c'è da dire che hanno anche in Corea il loro schettino. Oh, ma avete visto questa tragedia con forse 300 morti e il comandante ha preso la prima lancia e è scappato con tutto l'equipaggio, proprio l'unica che funzionava. Forse il schettino è coreano. Non lo so, potrebbe essere. Però io vi voglio far sentire, avete sentito che ha combinato il sindaco di Agrigento, Zambuto? Non lo sapete, eh? Che ha fatto? Questa non la sapete. Ha fatto questo appello, questo video appello, Zambuto! Cari turisti da tutto il mondo, cari amici cinesi, sono Marco Zambuto, agrigentino ad hoc e sindaco di questa meravigliosa città. Quella che vedete alle mie spalle è la Valle dei Templi, patrimonio dell'UNESCO. Vi offriamo sole, mare, gastronomia, storia e divertimento, un mix unico al mondo. Venire in Italia e non visitare Agrigento e la Sicilia è impossibile. Vi aspettiamo numerosi, dalla Cina come dal resto del mondo. Amici cinesi, invadeteci, non vi deluderemo. Zai Tian, Zhang Pai Niu, Hai Min Li Mei Le Do. Uomen, cioè Pugufuni. Basta. Debbio, in mandarino, amici cinesi, invadeteci. No, quelli non diteglielo due volte, invadeteci, perché no, le parole, sindaco, sono importanti, non lo ripeta. Zambuto. Ma la sentite, poi l'appello è finito in mandarino, rimandalo, quello in mandarino l'ha mandato. Sì. Zai Tian. Zhang Pai Niu, Hai Min Li Mei Le Do, Uomen, Jue Pugu. Chissà che ha detto, nel tempo siamo spacciati. Magari ha detto: vi vendiamo la Valle dei Templi, vi do questo tempio qua per 50 euro. 100.000 euro a colonna. Sì, esatto. Invadeteci, ha detto, no? Vabbè. Io vi devo fermare, vi devo augurare buona Pasqua a questo punto. Sarubbi, non pensare più a Cosentino, al jogging, dai, su, ci sono cose. No, su, buona Pasqua anche a voi. Allora, ci vediamo alla Reggio di Caserta. Sì, a tutti a fare jogging, un picnic, porta tu le chiavi di Cosentino, va bene. Grazie, ciao a tutti. Zai Tian, Zhang Pai Niu, Hai Min Li Mei Le Do, Uomen, Jue Pugu Funi, and Chuan. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti, dai che è venerdì e poi arrivano le ferie per chi ci va come me, una settimana, cari ascoltatori, sentite come mi sorride la voce, eh? Caro Peter Bescapè, caro Pietro Lacorte che mi guardate con fare luciferino, eh? Allora, oggi di che parleremo? Beh, parleremo di questa. Si era raffacciata questa idea della combattere l'evasione fiscale inserendo il canone Rai nella bolletta. Non si è capito perché questo abbia avuto il. Sia durata l'idea di 12 ore più o meno, poi è tramontata. Come al solito, siamo un popolo di evasori. Come certifica oggi Repubblica, un euro su quattro non arriva al fisco. So che il canone Rai è la tassa più odiata da molti italiani, però è una tassa, se non si toglie va pagata, no? In un normale paese. Parleremo di questo, avremo ospite Antonio Verro, consigliere di amministrazione della RAI, avremo ospite anche il capogruppo al Senato della Lega Nord, Massimo Bitonci, uno che insieme ad altri colleghi, credo anche della Lega, si picca da tempo di dire io il canone della RAI non lo pago. Avremo ospite alle 8:45 anche tra i candidati che sono spuntati un pochino strani, insoliti, Davide Vannoni, colui che ha inventato il metodo Stamina, che è finito sotto processo per questo, si è candidato alle prossime elezioni europee. Sarà il nostro ospite alle 8:45. Ora andiamo a sfogliare appunto i giornali. In questo venerdì 18 aprile i titoli sono in gran parte declinati a ciò che succederà oggi al Consiglio dei Ministri in anticipazioni per capire come si recupereranno questi 80 euro da dare in busta paga a molti italiani. Sull'IRPEF, nodo coperture, per ora sconto solo nel 2014. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore che si concentra su questa idea, cioè il decreto 80 euro in busta paga per il momento, a meno di improvvisi cambi di scena oggi in Consiglio dei Ministri, sarà una tantum, varrà solo per quest'anno. Il Corriere della Sera ha in qualche modo una doppia apertura, tagli alla sanità e alle imprese, questo è il titolo principale, ma c'è anche una lettera di Giorgio Napolitano, il capo dello Stato risponde al direttore del Corriere Ferruccio De Bortoli, il titolo è «Ho pagato un prezzo alla faziosità, ma il bilancio è positivo», parla di un anno della rielezione il capo dello Stato. La Stampa, così sarà diviso il bonus da 26 a 80 euro al mese in base al reddito. Repubblica, tasse, un euro su quattro rubato al fisco, ecco ciò che vi dicevo al titolo di apertura. IRPEF, tutti gli sgravi. Mentre per il Messaggero, bonus IRPEF e tagli alla sanità. Il Secolo XIX, sanità stretta sui rimborsi, ci si concentra sui tagli alla sanità che è una delle vie previste per recuperare questi soldi. L'Unità, oggi via libera al bonus IRPEF, mentre il Manifesto mette la foto di Piercarlo Padoan, il ministro dell'economia, il titolo è impareggiabile, e cioè è stato dato il sì dal Parlamento al rinvio di pareggio di bilancio, era un dogma inattaccabile fino a due anni fa. Berlusconi invece sul Fatto Quotidiano in prima pagina, Berlusconi attacca i magistrati, la prossima volta va in galera, questo è il titolo del Fatto. Mentre il Giornale, la ricetta di Berlusconi, stampiamo più euro, Libero, farò il volontario della libertà. Ma io non posso non iniziare. Con che cosa? C'è un articolo, due pagine di Adriano Celentano. Ah, sapete che quando capitano ogni tanto sono momenti talmente rari, preziosi e belli per la mia ugola, per poter sottolineare tutte le parole scritte in maiuscole dal molleggiato, in maiuscolo dal molleggiato. Sul Fatto Quotidiano, Adriano Celentano, state arrestando Dio. Questo è il titolo di due pagine dedicate al perché Gesù ha dovuto soffrire così tanto. Siamo vicinissima alla Pasqua, una domanda che mi sono sempre fatto, nessuno mi ha dato mai risposta, oppure io ero gnucco. E allora, Adriano Celentano, due pagine intense, le domande del molleggiato su Gesù. Perché il Papa piace a tutti? Così inizia Celentano. Ma tutti, anche a disonesti criminali che senza accorgersi correrebbero il grosso pericolo di essere deviati nella direzione opposta alla loro malvagità e quindi di redimersi sulla via di Damasco prima che per loro sia troppo tardi. Insomma, Pa Francesco, così lo chiama, Pa Francesco, piace ai buoni perché la sua presenza, il suo modo di fare rafforza e rende quasi visibile la grande prospettiva di una vita gioiosa che neanche possiamo immaginare quanto sia reale. E contemporaneamente insinua nei cattivi l'atroce dubbio che forse dopo questa vita assai più breve di un lampo ce ne possa essere un'altra, però eterna, una vera e propria scossa di terremoto che non capitava da più di 700 anni. E poi insomma va avanti: quando Gesù andò sul luogo dove Lazzaro era sepolto da 4 giorni e mandava già cattivo odore, la sorella Marta piangendo disse a Gesù: se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E Gesù, preso dalla commozione, disse: io sono la resurrezione e la vita, che chi crede in me vivrà in eterno. A questo proposito, la semplice idea di Dio è spiegata. Non conoscendo esattamente tutte le bellezze e lo splendore dell'universo, possiamo immaginare Dio, sia pure in modo riduttivo, scrive Celentano, come se fosse un grande prato verde dove la terra è fertile e ricca di sostanze organiche di cui le piante si nutrono. E noi siamo le piante che, se non ben annaffiate dai buoni propositi, si seccano. Se la pianta si secca, il pastore è costretto a strapparla e gettarla nel fuoco per liberare quello spazio di terreno fertile. E poi conclude: buona Pasqua Francesco e grazie per quel Vangelo tascabile che ci hai regalato. Vabbè, insomma, state arrestando Dio, Adriano Celentano. Due pagine centrali del Fatto Quotidiano dedicate a Gesù, meditazioni sulla vita eterna, e le potete trovare lì. Un po' in maniera più laica, Il Giorno mette a confronto, vicino alla Pasqua, che cosa? La vita molto austera del Papa, Papa Francesco. Il titolo a pagina 3: il Papa dell'austerity non molla, tremano i principi della Chiesa. La spending review vera la sta facendo in Vaticano il Papa, scrive il Quotidiano Nazionale. A fronte c'è questa notizia a pagina 2 che forse farà sobbalzare un po' qualcuno: l'attico d'oro di Bertone, una reggia da 700 metri quadri. L'ex segretario di Stato Cardinal Tarcisio Bertone, racconta Nina Fabrizio a pagina 2, prenderà possesso tra pochi giorni del suo nuovo mega appartamento all'ultimo piano di Palazzo San Carlo, giusto alla sinistra della residenza Santa Marta, nella quale in un appena bilocale risiede Papa Francesco. L'abitazione è il frutto di una maxi ristrutturazione durata all'incirca 7 mesi. È in grado di unire alloggio, che era in uso all'ex comandante della gendarmeria Camillo Cibin, già di notevoli dimensioni, con quello di fianco dove abitava Monsignor Bertagna. Risultato: un appartamento con i 700 metri quadri, una metratura d'eccezione, di gran lunga superiore ai già non modesti, almeno in quanto a dimensioni, appartamenti di tanti cardinali in Vaticano, come nelle zone extraterritoriali di Via della Conciliazione e San Calisto. Insomma, di fianco alla residenza Santa Marta, al bilocale del Papa, ci saranno i 700 metri quadri, l'ex segretario di Stato, il cardinal Tarcisio Bertone. A proposito di soldi, questa è un'esclusiva che c'è sul Sole 24 Ore. Attenzione, in prima pagina ne racconta Paola Bottelli: Armani, transazione col fisco da 270 milioni. Giorgio Armani, racconta Il Sole a pagina 37 nei dettagli, è finito nelle maglie del fisco perché quanto risulta al Sole 24 Ore è che lo stilista ha versato mercoledì scorso all'amministrazione finanziaria un assegno da 270 milioni di euro. Il motivo sarebbe una transazione effettuata nel corso di una verifica della Guardia di Finanza su 3 società estere facenti parte del gruppo su periodo di imposta tra il 2002 e il 2009. In pratica Armani aveva costituito, scrive Il Sole, all'inizio degli anni 2000 una serie di società operative localizzate in diverse parti del mondo, così come fatto da altre aziende della moda e del lusso ad alto tasso di internazionalizzazione. Le società erano effettivamente operative, dotate di risorse organici robusti, con l'obiettivo di cogliere le opportunità di mercato e il conseguenze di sviluppo, preliminarmente alla costituzione delle società la Giorgio Armani aveva attivato una procedura di interpello delle autorità fiscali nazionali in un'ottica di trasparenza al fine di ricevere una sorta di approvazione ex ante. Poi nel 2009, con l'insediamento ai vertici del nuovo top management, l'Armani ha cambiato strategia preferendo concentrare in Italia la direzione strategica e il domicilio fiscale. Ci sono state delle acquisizioni, spulciando nella relazione al bilancio 2009 si scopre che in quell'anno la Giorgio Armani S.p.A. nell'ambito della riorganizzazione incorporò una società controllata con sede in Svizzera che gestiva la commercializzazione estera dei prodotti del gruppo. E come mai allora, si chiede Il Sole, è partita la verifica? Perché negli ultimi tempi la nozione di residenza fiscale societaria è nel mirino delle fiamme gialle dell'Agenzia delle Entrate. Non è escluso che grazie all'interpello preventivo di inizio 2000 lo stilista si sia in un certo senso cautelato rispetto ad ancora più pesanti richieste da parte dello Stato. In ogni caso, la verifica, che si è concentrata in Svizzera, dove c'era questa sede secondaria, secondo quello che scrive Il Sole, ha portato, secondo queste anticipazioni, a un accordo con il fisco fatto dalla Giorgio Armani S.p.A. avrebbe versato 270 milioni di euro in settimana. Non sono 270 milioni, sono solo 80, o sono 80, sono i soldi che molti italiani attendono a fine maggio, per cercare di capire come verranno reperiti questi soldi. Oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri e da qui ripartiamo dopo la pubblicità. Alessandro Milan con la sua sexy voce ti sveglio ogni mattina. Uguale, cara ascoltatrice, grazie, un grande abbraccio. Allora, gli 80 euro in busta paga come arriveranno, cari italiani? Oggi il Consiglio dei Ministri dovrà dare tutte le delucidazioni, anche se le anticipazioni sono sui giornali e ce ne sono molte. Leggo per esempio la pagina 3 del Sole 24 Ore, Marco Mobili e Marco Rogari, IRPEF per ora sconto solo per il 2014. Ecco, questa è una novità che, se non verrà smentita, certamente potrà suscitare qualche perplessità, ed è questo: si va verso un intervento una tantum, sia per aumentare gli sgravi IRPEF sia per tagliare la spesa. Solo per il 2014. Per rendere invece l'intervento strutturale si è lavorato fino a tarda sera una nuova clausola di garanzia che dovrà impegnare il governo a confermare gli interventi con la legge di stabilità per il prossimo anno. Oggi, come scrive Il Sole, il premier Renzi dovrà zittire i gufi, presentare ufficialmente i conti sul bonus fiscale da 80 euro per chi guadagna fino a 1500 euro al mese e soprattutto spiegare concretamente come questo bonus non scompaia a fine anno. Il principio è quello di un taglio a tempo, e questo si evince dalle coperture, e quindi potrebbe valere solo per quest'anno, perché sia strutturale ci vuole un intervento nella legge di stabilità per il prossimo triennio, e dunque un impegno più avanti. E certamente quello che è scomparso è ciò che Renzi ha stoppato. Pare in un lungo braccio di ferro con il ministro dell'economia Padoan, Renzi ha stoppato l'ipotesi di finanziare il taglio delle tasse con l'aumento della pressione fiscale sui redditi medio-alti attraverso il taglio degli oneri detraibili, tipo i mutui prima casa, istruzione, spese sanitarie o per la palestra per i figli. Su questo ci sono dettagli sul Messaggero, a pagina 4. Alberto Gentili racconta: statali, Renzi frena i tagli, non tocco il ceto medio. In in un retroscena raccontano che Matteo Renzi non ha preso assolutamente bene la fuga di notizie sul presunto giro di vite per tutti i dipendenti pubblici, compresi semplici impiegati. Io non colpisco il ceto medio, ho sempre detto che restituiamo a chi ha dato e togliamo a chi ha avuto troppo. Questo non è il caso degli impiegati. Così ha tuonato il premier, che ha letto nella fuga di notizie una sorta di sabotaggio da parte degli apparati, di quella burocrazia lenta e inefficiente che intende colpire. La reazione dei mandarini sarà furiosa, così dice ai suoi Renzi, che in queste ore gioca una partita decisiva. Un incidente di percorso che ha appannato la soddisfazione del premier per il sì di Camera e Senato al documento economico finanziario e soprattutto il sì alla decisione di rinviare di un anno il pareggio in bilancio. Quindi Renzi è molto arrabbiato, scrive il Messaggero, per questa fuga di notizie che è la furiosa reazione dei mandarini. Certo, da dove verranno questi 80 euro? Taglia la sanità per 2,3 miliardi, taglia la difesa per 1,1 miliardi, taglio gli stipendi pubblici per 500 milioni, acquisto beni e servizi tagli per 700 milioni, un po' di dieta dimagrante anche alla presidenza del Consiglio 44 milioni, 1,6 miliardi di tagli alle regioni, 167 milioni di minori trasferimenti ai CAF, ai patronati, e quindi anche i sindacati avranno qualcosa da dire, 186 milioni di tagli agli organi costituzionali, questi i principali tagli, tanto che la sanità, che come avete sentito è molto colpita, vede un ministro della salute, Beatrice Lorenzin, che oggi sarà ospite di Giovanni Minoli, credo alle 9, arrabbiata. Lorenzin, troppi tagli, sanità a picco, così titola a pagina 8 Repubblica. Rosaria Amato racconta del durissimo braccio di ferro tra il ministro Lorenzin e Padoan per cercare di evitare i 2,4 miliardi di sacrifici della bozza iniziale. Altro che risparmi sugli acquisti, qui si vogliono intaccare le prestazioni sanitarie, avrebbe detto Lorenzin. Se è così, diamo il ministero a un dirigente del tesoro. Insomma, su questo braccio di ferro e dura reazione del ministro Lorenzin, che dice attenzione perché qui si rischia di intaccare il livello delle prestazioni sanitarie. Staremo a vedere, oggi ci sono ovviamente tutti i dettagli, certo ci sono anche già i magistrati che si lamentano perché si parla appunto di intaccare anche gli stipendi più alti dei dipendenti pubblici e tra questi certamente ci sono anche i magistrati, come racconta Il Secolo XIX con Sonia Oranges a pagina 3. I magistrati già sulle barricate, l'ANM, che è il sindacato dei magistrati, dice così si intacca l'indipendenza della magistratura. Giù le mani dai nostri stipendi! Commentato anche su Twitter, boccaccia mia, stati zitta. Va bene, allora, invece prosegue la vendita delle auto blu. Le auto blu venghino, signori, venghino, sono arrivate a 52 auto blu vendute. 52 di Stato, in cassa, racconta tutto la stampa, a pagina 5, in cassa sono arrivati dunque 371.000 euro, si è chiusa la prima fase d'asta delle auto blu. Sono state 52 le vetture assegnate, incasso complessivo 371.400 euro, la base media di partenza all'asta per ogni automobile è stata di 4.065 euro, quella conclusiva di 7.142 euro. Sulle auto eBay incasserà dal venditore, cioè il governo, 9 euro per l'inserzione, 35 se l'auto viene venduta, poiché è improbabile che qualche auto non venga venduta, l'incasso per eBay sarà di 44 euro ad auto, per un totale di 6.644 euro, cifra che l'azienda ha già deciso di dare in beneficenza. A oggi appunto 35 auto del Ministero dell'Interno assegnate, 8 dei Vigili del Fuoco, 9 della Difesa, di cui 10 Alfa 166, 5 BMW 525, 20 Lancia Tesis, 8 Alfa Romeo, 3 Lancia Tesis, 2 Audi, 3 Alfa, 1 Alfa 166 e 1 159. Vabbè, 371.000 euro incassate dallo Stato. Insomma, sono cifre che fanno comodo a una famiglia, ma insomma, per lo Stato non tanto. Cifre diverse sono quelle su cui si concentra l'apertura di Repubblica. È la lotta all'evasione fiscale. E allora il titolo di prima pagina di Repubblica è: un euro su quattro è rubato al fisco. Un euro su quattro, il 25%. Federico Fubini, Roberto Mania, prima pagina: un euro su quattro non arriva a destinazione. Ogni anno tra i 100 e i 120 miliardi mancano l'appuntamento con l'erario. È uno dei più vasti, sistematici, distorsivi fenomeni di evasione fiscale nel mondo avanzato. In tre decenni la sua forza di fuoco in termini finanziari è quasi triplicata. Oggi l'evasione vale circa l'8% del PIL, rispetto a un livello inferiore al 4% dei paesi europei più efficienti, capaci di conciliare crescita, conti in ordine ed equità. Sembra che solo in Grecia si faccia peggio di noi in termini di evasione fiscale. E allora l'elaborazione della Banca d'Italia e dell'Istat, che permette di fissare in questa cifra che viene di tanto in tanto ritirata fuori tra i 100 e i 120 miliardi il volume delle risorse sottratte al fisco italiano. Capite bene che io, quando ho letto questa cosa della bolletta e del canone RAI in bolletta, ho detto: dai, forse ci siamo, almeno per stroncare uno dei livelli di evasione più alti per la bolletta, forse che viene più evasa in Italia, anche in maniera sfacciata, dicendo: non la pago, chi se ne frega, venitemi a prendere. E invece è durata poco questa idea, e poi è tramontata. Allora, poi c'è tutta la questione delle candidature. Comunque noi ne parliamo alle 8:15. Le candidature, ieri si è riaffacciato Silvio Berlusconi, in qualche modo risorto ed è riapparso. A proposito di resurrezioni, però, voglio sentire prima Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno, però adesso mi sembra questo non vorrei. Volevo compensare. Volevo appunto compensare, cercando di annullare per questo tutto il lungo dossier corposo che ha in mano il tuo avvocato, paragonandoti a Gesù. Vabbè. No, per carità, stiamo con i piedi. Stiamo schisci. Siamo schisci, profilo molto basso, sì. Molto basso. Allora, innanzitutto, vabbè, auguri buona Pasqua, sì, anche a quelli te che ci ascoltano, e persino a te, Alessandro. Perfino a te, sì, così dimostro di aver in qualche modo gradito. Senti, ti voglio dire che oggi c'è un lavoro molto interessante su norme e tributi che riguarda le indagini finanziarie, quindi i poteri di contestazione a parte del fisco sui conti correnti. È un lavoro chiaramente costituito per chi se ne intende un pochino, però insomma la discussione è fino a quanto sono i poteri del fisco di attribuire poi dei ricavi, delle movimenti scorretti, visto che parlavi di evasione, mm-hmm. dei movimenti scorretti, analizzando i conti correnti, ad esempio i tuoi, no? Sì. Che mi risultano essere molto floridi, nonostante tu faccia professione, corposissimo, di povertà. E non sai quelli occulti di conti. Certo, sono i 100 e rotti miliardi, già una quota, mi immagino che derivi proprio da quello. Senti, comunque, se dovessi smobilizzarli, guarda che oggi nelle pagine di Finanza parliamo di società che devono quotarsi, che vogliono quotarsi, tra cui Fineco, quindi se sei interessato ti informi e vedi un po' che cosa si può fare. C'è questa lettera di Alitalia, sai che gli arabi, ecco, diciamo che non sembrano cedere. Diciamo che sembriamo vicini a un passo dalla rottura, addirittura, questo è il titolo della sua, tra Alitalia e Etihad. Sui 3.000 esuberi, insomma, non sembrano tenere proprio duro, e questo spiace. Vediamo se si trova un altro modo. Però poi c'è una cosa interessante: sai che c'è una banca che farà le selezioni, però appoggiandosi all'IKEA, cioè testerà i candidati con l'ausilio di IKEA. Cioè devono costruire uno sportello bancario in due ore? No. Anch'io ho temuto così, invece no, invece è una cosa, ho detto: caspita, adesso il bancario fa un po' di tutto, invece dal bancario al bancale così. Più o meno, sì. E questo non è male, devo ammettere che questa mattina ti trovo in forma. È in forma, sì. Comunque la selezione verrà completata in qualche modo, naturalmente non ci si baserà solo sulle competenze mostrate tra gli scaffali, ma anche appunto su altri fattori, però quella mostrata in sede IKEA sarà, quello che si capisce, determinante. Raccontiamo questa storia nelle pagine di Impresa e Territori. Beh. E poi un ultimissimo radiofisco, in realtà oggi è un po' radiolavoro, si può avere il bonus ASPI anche passando un contratto di apprendistato. Oh. Alessandro, chi deve capire, capisce. Ha capito. Fidati. Ha capito. Non dobbiamo capire tu. No, no, no. Caro Mauro, molti auguri, grazie, buona anche a te. Settimana prossima io non ci sarò, ci sarà Anna Migliorati che ti chiamerà, se vuoi ti chiamo anch'io alle 7.45, parliamo magari di Radio Fisco. Magari prima con Anna poi, okay. E poi con te, facciamo in questo modo. Ah, va bene, va bene. E soprattutto cosa devo dire adesso? Dico, sì. Traffico! Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola chiama Alessandro Milan, il buono, il brutto e il cattivo dell'informazione. Sì, già. Va bene, alle 7.47 minuti, dicevo, è riapparso Berlusconi, che si è trattenuto molto, ma non troppo. Alla fine l'ha dovuta dire la questione dei giudici. Attenzione, perché se parla male dei magistrati rischia che i servizi sociali vengano a lui revocati e trasformati in arresti domiciliari. E allora quella frase, alcuni giudici fanno politica, questo è il titolo sui giornali, per esempio a pagina 8 del Sole, comunque alcuni magistrati hanno dimostrato di fare, alcune correnti della magistratura, di fare politica, ecco che fa titolare addirittura al Fatto Quotidiano. La prossima volta va in galera. Berlusconi attacca i magistrati. Vabbè, adesso sembra più un auspicio quello del Fatto Quotidiano più che una notizia di cronaca. E poi che dire? Vabbè, ci sono interviste a Mastella che torna al Quotidiano Nazionale, dice: sì, sono amica. Cioè mia moglie è amica della Pascale, ma non mi ha messo lei in lista. Io ho fatto la storia di questo paese, Clemente Mastella, ho fatto la storia di questo paese. Oppure ci sono i candidati impresentabili, secondo il Fatto Quotidiano, liste per l'Europa, quelli che hanno condanne in primo grado, quelli che hanno processo. Noi avremo anche ospite Davide Vannoni, che è sotto processo, per esempio il caso Stamina, a pagina, alle 8.45. Ecco, invece una notizia di cronaca e politica che mi ha veramente raggelato quando l'ho letta, è una fotografia di questo paese. C'è su Repubblica dedica una pagina, c'è un po' per la verità su tutti i giornali, ma Cosentino, ex sottosegretario all'economia con qualche vicissitudine giudiziaria, riarrestato da poco, aveva a disposizione la reggia di Caserta perché aveva le chiavi personalmente spedite dall'ex prefetto. Questo titola Repubblica, pagina 17, la reggia era di Cosentino, le chiavi in tasca per fare jogging. Alla reggia di Caserta Nicola Cosentino si muoveva come a casa sua, scrive Dario Del Porto. Poteva andare e correre al parco senza preoccuparsi di guardare l'orologio, perché aveva addirittura le chiavi del monumento. Gentile omaggio del prefetto. Gliele hanno trovate i carabinieri durante la perquisizione del 3 aprile, giorno dell'arresto, con una busta, una lettera, mittente prefetto di Caserta. Illustrissimo onorevole dottor Nicola Cosentino, sottosegretario di Stato Economia e Finanze. All'interno c'erano tre chiavi, ciascuna con un'etichetta: cancello lato reggia, lucchetto cancello grande, chiave cancello grande. Nella busta c'era anche un biglietto intestato al prefetto Ezio Monaco, estraneo all'indagine, che è stato a Caserta dal 2008 al 2012, in calce la scritta affettuosamente Ezio. Che dobbiamo commentare? Niente, andiamo avanti. Per quel che riguarda la cronaca c'è poco tempo. Ciò che mi ha colpito di più è su tutti i giornali sono le fotografie che provengono dall'Iran, uno dei paesi che applica più assiduamente la pena di morte. In questo caso però c'è stato sul patibolo, con il cappio già attorno al collo del condannato, il perdono della madre della vittima. È una prerogativa della Sharia, cioè che i familiari della vittima possano, in punto di esecuzione della pena, perdonare la persona che sta per essere giustiziata. Così il perdono di una madre ha fermato il boia nell'Iran della Sharia. Questo è il titolo, per esempio, a pagina 21 di Repubblica, con un commento, un articolo di una pagina di Adriano Sofri. Lo ha perdonato il condannato, scrive Sofri, ha già la benda sugli occhi, il cappio al collo, la bocca spalancata di orrore e paura. La madre del ragazzo ucciso lo schiaffeggia sul viso. Lo fa perché ci sia giustizia. Poi lei e suo marito aiutano a togliere il cappio, hanno scelto la compassione. Le due madri della vittima e dell'uccisore si abbracciano, la folla che si è accalcata attorno resta a bocca asciutta e chissà con quali sentimenti. Ci sono molte cose da guardare e riguardare nella sequenza di fotografie che arriva dal paese della provincia di Mazandaran sul Caspio iraniano. C'è la scena, non è un vero patibolo né la macabra gru dalla quale penzolano a grappoli gli impiccati delle città. Qui si procede in economia, un'impalcatura di tubi innocenti, arrugginiti, la corda passata sopra un tubo, una seggiola di legno a cui dare un calcio, un militare, un mullah, i parenti. La Sharia, la legge coranica, stabilisce per gli omicidi la chissas, il taglione, sia pure corretto per vietare che le vite di donne, servi, poveri vengano valutate meno di quelle dei potenti e degli ambienti. Sono i familiari della vittima a decidere se esigere la vita per la vita o richiedere un risarcimento, infine perdonare senz'altro in nome di Dio. La vittima, Abdullah, aveva 18 anni, l'uccisore, Balal, era un ragazzino, 6 anni fa lo urtò per strada, l'altro reagì, Balal aveva un coltello da cucina. Ma poco prima dell'impiccagione, appunto, c'è stato il perdono con schiaffo dei familiari. Questa persona, che ora ha evitato la pena di morte, rimarrà in carcere, ma è stata perdonata almeno nell'esecuzione della pena. Un altro schiaffo ben più duro è quello che ha dato un familiare dei parenti un familiare degli scomparsi in Corea del Sud, dove c'è stato questo naufragio, una nave affondata. E titolano tutti i giornali, il quotidiano nazionale per esempio: c'è uno schettino in Sud Corea, lo schiaffo l'ha ricevuto il primo ministro Chung Hong-won, che si è presentato davanti ai familiari dei dispersi e ha preso uno schiaffo da uno che gli ha detto: come fai a mostrarti qui? Ma quello che è lo schettino è il comandante della Corea del Sud, che secondo i notiziari di tutti i giornali ha preso il primo battello insieme all'equipaggio, l'unica scialuppa che funzionava, e se l'è data, non si può dire a gambe, a remi per scappare dalla nave. E questo è il titolo del giorno: c'è uno schettino anche in Corea del Sud, il primo a scappare dal traghetto. Va bene, siamo al momento conclusivo. La carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. Oggi vince la stampa. Siamo in grande fretta. Vittorio Sabadin, mezza pagina con questo titolo: attenti, attenti al 38esimo anno. Attenti, quanti anni hai, Pietro? Attenti al 38esimo anno. Attenti, attentissimi. Che succede? È l'età in cui un figlio inizia ad assomigliare al padre. Ma chi se ne frega? Ma dico io, pensavo ti viene un infarto a 38 anni. Andiamo al giornale radio, dai. 24 mattino. Siamo qui alle 8:19 minuti, eccoci ben ritrovati da Alessandro Milan. Mando un abbraccio ideale a Fabrizia, che mi scrive che sono il suo eccellente compagno durante gli 8 chilometri di corsa mattutina. Nonostante ciò andrò in ferie lo stesso la prossima settimana. Fabrizia, mi dispiace, non mi ha convinto, però grazie davvero. Allora cari ascoltatori, oggi Repubblica in prima pagina scrive: l'evasione fiscale, la vera emergenza italiana, ma l'abbiamo sentito come un mantra da decenni. Secondo l'Agenzia delle Entrate, 1 euro su 4 non arriva allo Stato. 1 euro su 4 è quella famosa cifra stimata di 100-120 miliardi. Solo in Grecia pare facciano peggio di noi. Ecco perché quando un paio di giorni fa ho letto che stava per rispuntare l'idea, anche questa spunta come un fungo ogni 2x2, di legare il pagamento del canone RAI alla bolletta della luce, ho detto: dai! Oh, ci siamo, ecco un metodo abbastanza efficace per contrastare l'evasione in una delle tasse certamente più odiate dagli italiani, certamente considerate magari più sballate e sbagliate, ingiuste, però fin tanto che è lì o la si toglie o la si paga. E invece è durato poche ore questo progetto, poi è stato subito accantonato. Devo dire, elenco di sms arrivati quando prima in rassegna stampa ho detto che parleremo di questo, dicendo: dai, oh, così si contrasta l'evasione del canone. Sei ammattito? Vergognati, sei uno scemo, ti stimavo, non ti ascolto più. Ragazzi, no, ma tranquillizzo tutti, non sono né ammattito né scemo, io sono un coglione. lo devo dichiarare, sono un coglione perché io il canone della Rai lo pago e evidentemente chi invece non lo paga non lo è. Io sono invece Alessandro Milan, mi dichiaro 8:21 un coglione vero. Vogliamo parlare di questo con Antonio Verro, che è consigliere di amministrazione della Rai. Buongiorno Verro. Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. E voglio salutare anche il capogruppo al Senato della Lega Nord, Massimo Bitonci. Buongiorno senatore, ben ritrovato. Come va? Lei invece è uno di quelli che si picca di dire da anni io il canone non lo pago. Evasore convintissimo. Convintissimo, benissimo. Tra poco ci spiegherà perché. Intanto, dottor Verro, questo legame canone bolletta, cos'è? Una roba. Io ricordo ancora quando c'era il ministro Romani che aveva detto lo faremo. Devo dire che a quell'epoca lì eravamo arrivati, poi non so bene, francamente non ricordo più perché saltò la cosa. Eravamo arrivati a un passo dal chiudere quella vicenda. In un modo che credo, allora, io credo che contrastare l'evasione è un principio che è condiviso da tutti. Il meccanismo della bolletta, che è uno dei tanti, secondo me, anche secondo me è il più efficace. Sì. Attenzione, alcuni giornali dicevano loro si pagano sulla seconda, terza, quarta casa. Non è così, no, perché chiaro. Sarebbe legato ovviamente soltanto alla prima casa. È un meccanismo che consente di far pagare tutti, di recuperare un'evasione stimata che va dai 4 ai 500 milioni l'anno. Sì. E soprattutto consentirebbe di ridurre a fasce deboli o addirittura esentare fasce deboli della popolazione dal pagamento del canone. Quindi questo per dirle che su 400-500 milioni di evasione recuperata, diciamo che circa la metà potrebbero essere ristornati, sì, alle fasce più deboli. A far pagare meno. Ma perché si arrivò a un passo? Quale fu il passo mancante? Io onestamente adesso non me lo ricordo, non se, lo ricordo. Se cambiò il governo, francamente non ricordo. Mi ricordo soltanto che poi alla fine tutto sfumò. Però io a tutti quelli che, io capisco che pagare le tasse non è una cosa bella, capisco che la tassa sulla televisione è una cosa, no. Allora, noi in Europa abbiamo il canone più basso, in tutta Europa c'è la televisione di servizio pubblico che prevede il pagamento del canone, il canone più basso è quello italiano. Basta andare all'estero, adesso dobbiamo un po' riscoprire l'orgoglio di quello che siamo, di quello che facciamo, sì. Io credo che è indiscutibile che la migliore televisione d'Europa è la televisione italiana. Ed è quella che fa più ascolti, è quella che fa più ascolti. Ma io vorrei che gli ascoltatori riflettessero sul fatto che il canone non è semplicemente un modello di finanziamento, sì, ma è un modo per essere autonomi, perché la RAI, il servizio pubblico, sia autonoma dai governi di turno e dal mercato pubblicitario. Beh, però adesso Verro, che lei mi dica che la RAI sia autonoma dai governi, quindi autonoma dalla politica, qui un piccolo sorriso me lo dovrà concedere. No, distinguiamo, autonoma dal governo e autonoma dalla politica non sono due cose uguali. Autonoma dal governo vuol dire essere autonomi dall'esecutivo di turno. Essere autonomi dalla politica con la P maiuscola, francamente io credo che non debba essere così. Perché la politica e quindi il Parlamento, cioè se non piace il Parlamento chiamalo, voglio dire, a me va bene tutto. Finché esista il Parlamento come istituzione democratica, che è il posto dove si tutela il pluralismo e, come dire, la parità di accesso a tutti, è chiaro che c'è un legame indissolubile, come c'è in tutto il mondo civile, tra Parlamento, politica con la P maiuscola, pluralismo e autorità. Però ecco, la questione del... Allora, visto che qua abbiamo un evasore, come si è definito, Bitonci, convintissimo. Da quanti anni è che non paga il canone? Non se lo ricorda manco più. Praticamente da sempre, da più di 20 anni. Cioè, cosa arriva la lettera e lei la straccia, no? Arriva la lettera, la straccio e rimando indietro tutto. Peraltro nel mio sito internet io... insegno come fare il suggellamento del televisore, con 5,16 euro il pagamento di un vaglia si può chiedere che venga suggellato il televisore. Io sono estremamente convinto perché, e soprattutto in questi ultimi anni, stiamo parlando di spending review, di crisi economica, e dopo la RAI consuma e brucia 1,7 miliardi di canone pagato dai cittadini italiani. Mi sembra che questa sia veramente una vergogna, perché se guardiamo i dati della RAI rispetto anche ad altre TV che svolgono comunque un servizio pubblico, perché non possiamo pensare che facciamo dei nomi, Mediaset, La7 e altre TV non svolgano comunque dei servizi pubblici di informazione e anche molte volte più corretti di quelli della RAI, però i numeri della RAI, guardi direttore, sono incredibili, perché abbiamo 13.000 dipendenti, costo medio per dipendente 89.000 euro, debiti per 800 milioni, 40.000 collaboratori, 21 sedi regionali. Cioè, questo è un vero e proprio carrozzone. Sì. Stipendi milionari, 2 milioni di euro a Fazio, faccio solo dei nomi, Floris 500. Cioè, io penso che sia giunto il momento per mettere sul mercato la RAI. E questo però è un altro discorso. Cioè, del Sole 24 Ore dello scorso anno, mi pare che lo valutava in circa dai 2 ai 3 miliardi. Però mi scusi, euro. Bitonci, privatizzare, ma certo, ma ho capito, ma privatizzare la RAI è un altro discorso, cioè privatizzare, magari tenere un canale, privatizzarne due, non so, magari anche Verro d'accordo, non lo so, adesso glielo chiediamo. Però se faccio un esempio del servizio pubblico che non fa la RAI. Allora, io che sono stato membro per parecchi mesi della commissione di vigilanza, insomma, quella di tipo parlamentare, al direttore Gubitosi, in uno dei miei primi interventi, ho detto: lei si ricorda l'alluvione del Veneto del 2010, sì, o il terremoto dell'Emilia? Sa chi ha fatto il servizio pubblico diurno e notturno ai cittadini, informando minuto per minuto com'era la situazione? Ci sono stati anche morti, come sappiamo. Sono state le TV locali, non la RAI. Cioè, la RAI era chiusa, ha fatto il suo bel telegiornale alla sera e poi alla mattina, e durante tutta la notte le TV locali hanno svolto un eccezionale servizio puntuale, informando i cittadini sull'aumento del livello dell'acqua, su dove e quindi questo sarebbe un motivo, un buon motivo per non pagare, servizio, per non pagare. Il servizio pubblico che fa la RAI con i 13.000 dipendenti, ma questo è uno dei motivi. Sì, certo, ma questo per lei è quindi un motivo per non pagare il canone? Perché sì, perché secondo me questo, quello che fa la RAI, non è un servizio pubblico. Ci sono solamente alcune trasmissioni di informazione che fanno un servizio, ma tante altre trasmissioni, mi permetta, sono legate più al consenso, allo share, non certamente al servizio quello pubblico. Che deve fare una, vediamo, è interessante questa critica, cioè il pagamento del canone RAI, caro Verro, non è legato al fatto che sia un servizio pubblico. Molti dei programmi guardano poi alle leggi del mercato, quindi all'audience, e quindi se pensare che il canone serve soltanto a pagare l'informazione, è una informazione distorta. Tra l'altro, l'onorevole Bitonci, non ho capito se era o è ancora in commissione parlamentare di vigilanza, potrebbe dare un bel contributo all'abbattimento, alla riduzione del canone e quindi dei costi, togliendo per esempio una piccola norma che impone alla RAI di avere 20 sedi regionali, perché ce lo dice la legge. La legge. Allora, per lei sono troppe, vero? Ma non è che secondo me non sono troppe e dovrebbero essere mantenute, anche se qualcuno del governo pensa che... Allora, io vorrei che si capisse una cosa, che il canone serve a finanziare che cosa? Allora, gli sport minori, serve a finanziare le partite della nazionale. Voi non avete idea di che cosa costano i diritti sportivi di nazionali, olimpiadi e di mondiali di calcio che avremo adesso. E questi, gli unici in Europa che li mandano free, si chiama RAI, Radio Televisione Italiana, perché gli altri lo fanno a pagamento. Lo fanno a pagamento. Andare a vedere da casa la prima della Scala è servizio pubblico. Permettersi di sottotitolare il 75% delle trasmissioni, oppure fare il TG col linguaggio dei segni, è servizio pubblico. Tutelare le minoranze linguistiche è servizio pubblico. Detto questo, e questo serve dice, il canone. Ma lei dice che è tutto perfetto, no, assolutamente no. Chissà quante cose abbiamo da migliorare, di impegnarci, eccetera. Detto questo, però, francamente, che adesso si metta in discussione il canone quando abbiamo chiuso un bilancio, mi consenta, in un momento di crisi economica che è sotto gli occhi di tutti, di calo della pubblicità, degli investimenti, eccetera, facendo sforzi sovrumani per chiudere un bilancio con, se non ricordo male, quasi 6 milioni di utile, e che si venga a mettere in discussione il canone, francamente a me sembra una cosa proprio culturalmente sbagliata. A meno che il retropensiero non sia quello che diceva l'onorevole prima, cioè privatizziamo la RAI. Ma questo è un'altra, allora diciamolo chiaramente, facciamo una battaglia. Io continuerò a dire, pur essendo di estrazione politica di centrodestra, un mio sonoro no, perché io sono straconvinto la privatizzazione assolutamente, ma servono no. tre canali però, tre TG. Ma noi abbiamo 14 di canali, sì, certo. Non 3, no, anche qui insomma, noi abbiamo i 3 canali generalisti più 11 canali tematici, quindi privatizzarne almeno qualcuno, ecco. qualcuno, vedi, cioè, allora se si tratta di come dire, ridimensionare un po' tutto il sistema radiotelevisivo, cioè è chiaro che non si può dire soltanto la RAI deve rinunciare a un canale, eccetera. Allora apriamo un dibattito e parliamone, ma francamente privatizzare la RAI io credo che è un problema che se ne parliamo veramente con i cittadini e facciamo riflettere i cittadini su che cosa vuol dire la funzione di servizio pubblico della RAI, io credo che non si voglia privatizzare. Allora andiamo in pubblicità qualche minuto, riprendiamo tra un attimo con Antonio Verro, membro CDA RAI, e il senatore Massimo Bitonci della Lega, tra poco. 24 mattino. Siamo qui alle 8:36 minuti. Allora rispondo a tutti quelli che dicono: ma se io non possiedo un televisore, chi non ha la TV? Guardate che il pagamento del canone per chi ha un'apparecchiatura atta e adattabile alla ricezione radiotelevisiva. Che ne so, non avete la TV, ma avete un PC? Avete un computer dove ci sono dei video dove potete vedere la TV? Ormai si può vedere con la tecnologia in tutti i modi, tra un po' anche dal videocitofono. Ecco, dovete pagare il canone comunque. Ma al di là di questo, Bitonci, poi so che Verro ci deve lasciare qualche minuto prima e quindi darò la precedenza. Bitonci, intanto lei continua in questa battaglia, ma non ho capito il senso del non pagare, c'è proprio una protesta fiscale, punto e basta. Beh, in realtà io volevo un po' anche contestare quello che aveva detto il consigliere della RAI, cioè non è vero che la RAI fa vedere gli sport minori. Gli sport minori vanno soprattutto nelle TV locali e le faccio anche qui un esempio. Beh, anche il RAI, magari i canali del RAI Sport, queste, ci certo, sono. Il rugby va su D-Max, che è una TV gratuita, e il rugby, che è uno sport nazionale e che viene giocato soprattutto in alcune regioni del nord, in Veneto, in Lombardia e anche in Emilia Romagna, non viene visto, quindi la nazionale italiana non viene vista assolutamente sui canali della RAI. Ma, cioè, ma lei ne fa una crociata, come dire, non è che si può far vedere tutto, ma che lei è appassionato di rugby, so che è appassionato anche di maratone, però non è che si può far vedere tutto, cioè che siccome c'è il canone RAI ognuno deve aver soddisfatto, diciamo, c'è una... Guarda, io resto della mia idea, questa è ovviamente una tassa, è la tassa più odiata dai cittadini, sappiamo che il 25% dei cittadini non lo paga, molti di questi non lo pagano, non pagano volutamente, molti sono dell'idea che non sia un vero servizio pubblico e che in definitiva si potrebbe, come è stato detto prima, metterla sul mercato, vendere la RAI, privatizzarla, con i 2-3 miliardi di entrate si potrebbe evitare di fare magari i tagli al sociale o i tagli alla sanità. E si potrebbe soprattutto evitare che i cittadini versassero 1,7 miliardi, che è un terzo, un quarto di una manovra finanziaria ogni anno solamente per sostenere la RAI, che si parlava prima del bilancio della RAI, che è un bilancio che è in pareggio quest'anno. Sì, ma caro consigliere, è un bilancio drogato, perché quando nel privato i conti si fanno fra entrate e uscite, invece nel bilancio della RAI c'è questa entrata di 1,7 miliardi che sostiene in maniera estremamente evidente ed è concorrenza sleale nei confronti delle altre reti. A proposito di questa entrata, Verro, nel salutarla devo fare due domande però. Ma è arrivata questa lettera di Cottarelli al direttore generale della RAI Gubitosi a dire vi vogliamo prelevare un po' 170 milioni di euro del canone? Non lo so, spero tanto di no, perché sarebbe una cosa francamente che rischia di ricalcare un po' quello che è successo in Grecia, dove circa l'anno scorso il governo inopinatamente e illegittimamente con un decreto chiuso la televisione greca, e salvo poi fare una marcia indietro clamorosa, perché le pressioni della piazza, il Parlamento e le pressioni europee furono tali per cui il governo fu ricostretto. Scusi, c'è anche una questione di governance nel CDA della RAI. Secondo lei Luisa Todini, che è stata nominata alle poste, per legge può rimanere anche nel CDA, ma dovrebbe lasciare la poltrona in RAI? Allora, per legge non c'è un'incompatibilità formale, quindi teoricamente potrebbe, c'è oggettivamente un discorso di opportunità politica, e io sono convinto che Luisa Todini sarà in grado di fare le valutazioni del caso e è preso, sono certo che prenderà la decisione giusta. Volevo soltanto dare una piccola battuta all'onorevole Bitonci. Sì. Allora, io vede, distinguerei l'intervento dell'onorevole Bitonci in due. Se il retropensiero è quello di privatizziamo la RAI, mettiamola sul mercato, eccetera, è una battaglia, come dire, di tipo una visione totalmente diversa dalla mia, confrontiamoci in Parlamento, in vigilanza, eccetera, eccetera, vediamo il Parlamento cosa decide di fare ed eventualmente ciascuno farà le battaglie sulla base dei principi, sì, che sostiene. Però il canone non c'entra. Se invece il discorso è migliorare il servizio pubblico, ma allora facciamo una battaglia assieme in commissione di vigilanza e in Parlamento per migliorare, perché io sono il primo a dire, non dico mica che tutto è perfetto, che tutto è migliorabile, non c'è ombra di dubbio, e da parte nostra e dei dirigenti e da parte del Consiglio di amministrazione c'è tutta la massima disponibilità per cercare di rendere sempre più efficiente il servizio pubblico. Sugli sport minori, tanto per, cioè, sì, noi abbiamo due canali dedicati allo sport, certo è chiaro che non puoi coprire tutto l'arco costituzionale dello sport, sì, però diciamo che ci stiamo attrezzando per fare questo. Va bene, intanto io nel ringraziare il membro del CDA della RAI Antonio Verro, consigliere di amministrazione, grazie, alla prossima. Un salutone a tutti. Senatore Bitonci, vabbè, questa è la battaglia. Fatevi sentire due ascoltatori, Gennaro da Salerno. Gennaro, buongiorno. Pronto, sì, buongiorno, dica. Sono Gennaro Guerrasio, chiamo da Nocera Inferiore, ecco, provincia di Salerno. Sì. Saluto al dottor Milan, sì, insomma, gli ascoltatori e gli ospiti presenti. Va bene. Volevo fare questa osservazione, insomma, voglio ricordare un bel pensiero di Don Lorenzo Milani. Sì. Non c'è lezione più grande di chi paga di persona per una obiezione, in questo caso una obiezione fiscale da parte del vostro ospite, insomma, sì, che si accaniva contro questo non pagamento. Voglio solo ricordare che, insomma, il canone è legato ad una cartella esattoriale successiva poi di Equitalia nel caso in cui non si paghi. Ecco, credo che ogni radio e teleascoltatore abbia un'autovettura, per cui insomma c'è il rischio che si veda un bel fermo amministrativo sul veicolo, quindi vabbè, ci sono anche dei risvolti negativi. Vabbè, ma io non ho capito, ma lei lo paga il canone? Insomma, mia madre sicuramente sì, perché io abito con lei ed è un abbonamento del 1962, insomma, intestato ancora a mio padre, vabbè, di cara memoria. E quindi paga. Quindi vabbè, c'è paga questo pericolo, per cui non so poi come risolverà questo problema. Non lo so, Bitonci non lo so come fa Bitonci, ma Bitonci, i controlli sono mai arrivati? No, solo le lettere. No, perché in realtà poi i controlli non vengono fatti, anche quando noi insieme anche a tante altre associazioni di contribuenti, sì, insegniamo a come fare il suggellamento del canone, poi sì, in realtà non vengono a fare la chiusura dei canali, perché è una procedura anche troppo complicata, tecnico, sì, abbastanza complicata, quindi se la cava così. È una battaglia che io come tanti altri penso che vada fatta, perché ripeto, questa per noi è una vera tassa ed è una tassa iniqua. Gennaro ha ragione, purtroppo ha ragione nel senso contrario, nel senso che purtroppo poi ci sono sistemi coercitivi per cui chi non paga il canone magari si trova anche multe e sanzioni successivamente, ma seguite la procedura corretta, che è quella proprio del suggellamento del televisore. Sentirei Alviero da Trento per concludere. Alviero, buongiorno, eccoci. Salve. Dica. Io sono uno che, tra virgolette, chiamiamolo fesso, di quelli che paga il canone. Però praticamente non sarebbe da pagare, per il semplice fatto che l'Agenzia delle Entrate ci manda un bollettino con scritto che è un bollettino per il canone RAI, quando noi paghiamo una tassa di possesso. Quindi sì, ci manda un, sì, bollettino completamente sbagliato. Se la RAI dopo vuole finanziare quel bidone della RAI che praticamente funziona grazie a quei politici che se la mangiano tutta, quello è un altro conto, perché il servizio pubblico non ne fanno. È solo praticamente tutta di parte. Tutta di parte. Di che parte? Lei ha anche un'idea di che parte? Ma non ha importanza, che a seconda di quello che parla è che a seconda di quello che parla, parlano in tanti, quindi sarà una parte un po' plurale. Comunque, Alviero, la ringrazio per il suo parere. Con questo concludo questo argomento. Voglio salutare il capogruppo al Senato della Lega, Massimo Bitonci. Buona Pasqua, ovviamente, grazie buona per essere Pasqua stato con tutti, noi. Buona giornata. Allora, dopo il traffico, c'è già il nostro. nostro ospite con cui concludiamo la trasmissione è un ospite che io ho già avuto varie volte, ed è Davide Vannoni, colui che ha inventato il metodo Stamina, colui che però è anche sotto processo, colui che ha deciso di candidarsi alle elezioni europee. Tra poco, dopo il traffico. Allora, ovviamente a ogni elezione ci sono candidati di tutti i tipi, candidati anche che con la politica, magari fino a poco prima avevano poco a che fare, di esperienze politiche, e che si ritrovano invece anche in questa elezione alle elezioni europee. È il caso di colui che è diventato celebre nelle cronache perché ha inventato il metodo Stamina, quello che secondo lui serve a curare malattie degenerative molto gravi e che però invece per molti è una truffa vera e propria, ecco, lo dico brutalmente. Si tratta di Davide Vannoni, che saluto, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato Vannoni. Buongiorno. Lei si candida alle europee per il movimento Io Cambio. Intanto ci spieghi che movimento è e perché ha fatto questo passo? Guardi, ho scelto un movimento tra, le dico, alcune offerte che ho ricevuto prima di questa, di queste elezioni. Ho scelto un movimento i cui fondatori li ho incontrati in piazza. Li ho incontrati in piazza a protestare per poter applicare la metodica Stamina. Li ho conosciuti più di un anno fa, li ho conosciuti insieme ai fratelli Viviano in piazza Montecitorio, dove tante sono state le manifestazioni organizzate a favore del metodo Stamina. E devo dirle, gli unici che ho incontrato, perché in queste occasioni, perché di altri politici non se ne sono visti. Però dice politici, altri hanno fatto, le avevano promesso qualche altro partito, qualche contatto lo aveva avuto, diciamo. Sì. Qualche contatto c'era, ovviamente il tema della libertà di cura, delle cure compassionevoli che vengono negate nel nostro paese nonostante una legge europea, una legge italiana, è un tema sicuramente caldo e di interesse per i cittadini, che non riguarda solo il discorso di Stamina, ma può riguardare tantissime altre terapie che potrebbero arrivare comunque al letto del malato. E quindi è un tema, penso, di grande interesse, almeno lo ha dimostrato di esserlo, se non altro per l'attenzione che è stata data anche solo a Stamina nell'ultimo anno. Certo. Senta, come la mettiamo però? Lei ovviamente adesso è sotto processo per tentata truffa e danni alla regione Piemonte, e allora va a pensare, molte persone dicono, ecco, cerca una sorta di immunità parlamentare, dovesse poi andare male il processo. Intanto chiariamo due cose. Io ho subito chiarito il fatto che in caso di una condanna darei immediatamente le dimissioni da qualunque carica mai dovesse raggiungere. In secondo luogo, se avessi cercato l'immunità, probabilmente avrei cercato anche un partito più grosso che mi avrebbe garantito sicuramente un'elezione, mentre invece in questo caso ho scelto veramente un piccolo partito nascente, e mi interessa che si parli del tema Stamina, perché negli ultimi due mesi, dopo una valanga di fango mass mediatico inaudita, senza possibilità di replica, dopo gli ultimi due mesi è calato un silenzio sordido su tutta la vicenda, mentre invece i pazienti continuano a essere in cura, la sperimentazione ministeriale continua a essere in piedi, però io continuo a sentire ogni tanto qualcuno di quelli che ormai io non chiamo più scienziati, ma solo appartenenti a una cupola lobbistica italiani, e sono anche pochi, che continua a dire che il metodo Stamina non funziona, senza avere visto un paziente, senza aver mai visto un paziente, senza che sia stata fatta una sperimentazione. Però senza, quindi, appunto, però questo è il tema che abbiamo affrontato anche in varie altre trasmissioni con lei. Purtroppo, o piaccia o no, cioè purtroppo per lei, l'unico modo per validare un sistema è quello di passare attraverso una validazione scientifica. Noi non abbiamo mai rifiutato. Non ce ne sono altri, diciamo, di vie alternative. Fino a quel momento è un metodo non scientifico. Cioè. Esatto. Ma infatti non ho mai detto che Stamina sia una metodica accreditata scientificamente, è una metodica oggi in applicazione. Vede, c'è una bella sentenza del giudice di Marsala l'altro giorno. Che ha fatto anche un po' scalpore, perché è una sentenza dura verso quello che è successo ultimamente. Che ha imposto agli ospedali di Brescia di curare un paziente col metodo Stamina. Quello è l'aspetto, se vogliamo, più facile, nel senso che sono 180 i giudici che hanno imposto all'ospedale di Brescia di curare dei pazienti. Però il giudice di Marsala va molto oltre. Intanto spiega il fatto che non valutare curare i pazienti, come sta facendo l'ospedale di Brescia, che fa le infusioni e poi li rimanda a casa senza interessarsi di come stanno e cosa fanno, poi loro sono costretti ad andare a farsi fare le analisi in altri ospedali, è una sorta di delitto contro la conoscenza, anche contro la scienza, perché la scienza implica che se c'è un fenomeno non devo dire a priori fa schifo o è meraviglioso, ma devo controllare, ma certo, almeno ma avere la curiosità. Ah, certo, però il fenomeno poi scientifico, sa, poi il fenomeno è un mediatico, è una questione, la scientificità è un'altra. Ecco, ma a proposito di questa decisione di Marsala, perché sa, molti hanno fatto notare invece che il perito del giudice era stato il dottor Andolina, che è vicepresidente, credo, insomma, con lei. Andolina non ha fatto da perito, è stato sentito. È stato sentito. Quindi non con il ruolo di perito e soprattutto la famiglia ha portato al giudice le relazioni mediche dell'ospedale nel quale il bambino è ricoverato, che è un ospedale siciliano molto grande, nelle quali sono evidenziati i miglioramenti che ha ottenuto questo bambino, cioè ripresa del movimento delle braccia e delle mani, fasi di respirazione autonoma che ovviamente non aveva, un aumento di peso da 3,7 kg a 11,8 kg nell'arco di 6 mesi, che sono muscoli, non è grasso. Quindi questo bambino sta ricominciando, e intanto è ancora vivo, e avrebbe dovuto morire a 6 mesi, è ancora vivo a quasi 3 anni, è in miglioramento con una malattia neurologica degenerativa continua. Questo scrivono i medici. No, ma chiaro, ma lei, Vannoni, quindi si candida per capire perché cosa? Detto che appunto io insomma, vedo un po' difficile che si possa superare lo sbarramento del 4% per il movimento Io Cambio, che fino a questo momento non avevo sentito. Si candida nell'ipotesi, diciamo, di un'elezione in Parlamento per portare avanti che tipologie di battaglie? Il metodo stamina a livello europeo, per esempio? Beh, il metodo stamina a livello europeo lo riterrei un conflitto di interessi, lo farei in senso più ampio con due aspetti. Beh, intanto, prima di dire che non si raggiungerà, aspettiamo di vedere i voti. Io credo che il panorama politico di questo momento lasci spazio anche a qualcosa di nuovo e a qualcosa che risulti un po' dirompente rispetto a quello a cui ormai siamo stancamente abituati. Però quello che le posso dire è che ci sono due grandi battaglie, una italiana, perché lo Stato italiano si rifiuta di applicare una legge europea e una legge che poi è anche italiana, che è la legge Turco Fazio, e lo fa in una maniera assolutamente illegittima, come hanno già decretato i giudici. In secondo luogo c'è la famosa attribuzione delle cellule staminali come farmaci, che invece è stata una legge europea. Quindi è una seconda legge diversa da quella delle cure compassionevoli, che dice che del materiale vivente presente nel nostro corpo è un farmaco. Ed è come classificazione, se non altro a livello semantico, un po' triste, cioè oltre che illogica. Quindi credo che questa invece sia una battaglia da condurre a livello europeo. In più c'è anche lo strapotere da combattere, non delle lobby farmaceutiche, perché quelle sono aziende, è ovvio che si facciano i loro interessi alla faccia di tutti. Ma di chi? Quanto piuttosto delle agenzie regolatorie, che hanno assunto, come l'EMA, come l'AIFA, hanno assunto un ruolo di predominio schiacciante, che nascondendosi dietro la tutela dei pazienti in realtà poi produce, abbiamo già visto nel caso di Novartis, scelte di farmaci 10 volte più costosi rispetto ad altri. Queste sono le battaglie che lei pensa di portare avanti. Questa io ritengo che siano battaglie vitali. Conferma, perché sa, un impegno importante, che nel caso di elezioni, ma nel caso di un'eventuale condanna, lei si divetterebbe, perché sa, dicono tutti così, poi dopo una volta... Lo confermo, lo sottoscrivo a chiunque. Lo confermo e lo sottoscrivo a chiunque. Va bene, intanto in bocca al lupo, ovviamente, come faremo a tutti i candidati per le elezioni europee. Grazie per essere stato con noi, Davide Vannoni, voglio ricordare, inventore del metodo stamina, è in corso alle elezioni europee per il movimento Io Cambio. Ci fermiamo qui anche per questa puntata, per me anche per questa periodo, per questo periodo. Ieri qualcuno mi ha scritto facciamo una sottoscrizione di firme per togliere la prossima settimana di ferie ad Alessandro Milan. Saranno arrivati, credo, a 3-4 firme. Io settimana prossima sono in ferie, perché è così, perché è giusto così. E ci saranno migliorati però a condurre 24 mattino, quindi non è che 24 mattino si ferma, vado via io, ma la radio va avanti, anzi benissimo, anche senza di me, anzi meglio direi. E allora grazie a Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli e Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Pescapè in regia. Qualcuno mi ha scritto: ma l'alpino Pescapè sarà a Pordenone? Ma sono domande da farsi. Ma sono domande da farsi! Se sarà la durata degli Alpini, ma vi rendete conto? Ma sono domande da farsi, ma certo che sarà lì! E allora, buone vacanze, me le faccio da solo, ci risentiamo, boh, non lo so, ma noi voi state con noi, eh!